Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. Siamo pronti per dedicare questo appuntamento del soundcheck di Radio 24 a Jill Scott, la poetessa del funk from Philadelphia. Buonasera a tutti voi da Giorgio Telesforo e buonasera a Francesco Tromba. Ciao a tutti. Non ti nascondo, Francesco, che Jill Scott mi piace anche fisicamente, anche adesso che è diventata un po' abbondante, una taglia forte, ma non mi dispiace. C'è tanto da abbracciare. Pensa quando abbracci una donna così, quanto soul puoi sentire fisicamente. Sì, già se ce l'hai nella stessa stanza emana un'energia impressionante. Eh sì, l'energia di Jill Scott deve essere infinita, anche perché questa donna è nata e cresciuta in una città importante per la black music come Philadelphia, che già dagli anni 70 ha dato vita al suo sound personale, il famoso Philly Sound, che ha fatto ballare intere generazioni di appassionati di musica e che poi col tempo si è trasformato e si è evoluto per arrivare al suono di una super band contemporary come The Roots. E infatti non a caso il batterista, producer dei Roots, adesso anche star della televisione americana, Amir Thompson, ovvero Questlove, ha anche la responsabilità di aver scoperto il talento di Jill Scott. Sì, tanto Jill Scott cresce come figlia unica, cresciuta principalmente dalla madre e dalla nonna. Quindi senza papà. Sì, senza papà. Però lei racconta della sua infanzia come un'infanzia molto felice, anche se non c'era la presenza del padre. Lei tra l'altro, la sua è una storia bellissima, una storia di chi non molla mai le sue passioni e comunque le persegue finché non arriva a quello che è il suo obiettivo. Sì, è anche carino il fatto che non pensava proprio di diventare un artista quando era ragazza, pensava di fare un altro tipo di professione. Sì, lei voleva fare l'insegnante, infatti lei si è laureata mentre faceva due lavori, poi è diventata insegnante di inglese. Ecco, vedi, questa è una cosa apprezzabile di questa artista. Sì, lei faceva dei lavori anche come gelataia. Sì, faceva la gelataia. Stupendo. Però questo dopo, quando ha lasciato la scuola, perché lei aveva iniziato, il percorso per l'insegnamento, faceva l'insegnante di sostegno. Poi un giorno decise appunto che la musica in realtà era la sua vera vocazione e da lì abbandona il percorso di insegnamento e ovviamente deve iniziare a sbarcare il lunario e per questo ha fatto anche la gelataia per diverso tempo. Poi nel frattempo andava a suonare nei locali la sera, faceva questi spoken word, dove un giorno entra in questo locale Amir Thompson. Entra lui con la sua capigliatura e il suo pettine infilato fra i capelli, nella pettinatura afro, e capisce che c'è qualcosa di speciale in questa bella ragazza. Sì, allora non era così cicciona. Sì, soprattutto ne intuisce le potenzialità a livello proprio di scrittura dei testi. Infatti questa è una delle cose in assoluto di cui è dotata Jill Scott e quindi la coinvolge proprio nella produzione di credo anche di un brano, nella scrittura di un testo. Sì. Per Erykah Badu, vero? Sì, allora come racconta Questlove, lui entra in questo locale, capisce appunto subito che si tratta di un fenomeno, Jill Scott, e le chiede di scrivere un testo per la sua band, per i Roots. Lei scrive You Got Me, brano che varrà il Grammy Award, il primo Grammy Award per i The Roots, solo che a cantarlo non sarà Jill Scott, perché ovviamente la casa discografica aveva bisogno di un nome importante. In quel momento Jill Scott non era nessuno e quindi viene chiamata Erykah Badu a cantare la canzone scritta da Jill Scott. Bene, il primo album per Jill Scott viene pubblicato nel 2000 per una neonata etichetta discografica di Philadelphia, ovvero la Hidden Beach Records. Il brano di successo, quello portante, ormai è famosissimo, fa parte proprio della storia del New Soul, si intitola It's Love, da Who's Jill Scott, Words and Sounds, volume 1. Primo album, prima composizione importante, Long Walk per Jill Scott nel 2000, e arriva subito, immediatamente, la nomination al Grammy Award. Sì, succede, penso, così. Cioè, al primo colpo lei proprio va diretta. Sì, naturalmente poi il premio non lo sì, prese. Non lo prese, quello, anche perché magari comunque il primo disco. Primo disco, però si fece notare. Quindi quella che era entrata nell'ambiente discografico come una nuova autrice di testi, anche per le star, improvvisamente si ritrova a calcare il palcoscenico e a fare anche i primi concerti con la sua band. E inizia a togliersi delle soddisfazioni. Sì, pensa che comunque partendo da appunto corista, diciamo, cioè lei era una guest dei The Roots, poi è diventata quasi immediatamente una star in tutti gli Stati Uniti, facendo grandissimi concerti, facendo dei pienoni continui. Oltre a questo, comunque è arrivata anche proprio la vera e propria riconoscenza a livello artistico di scrittura dei testi, cioè è stata invitata alla Casa Bianca nell'occasione di uno speech sulla poesia vera e propria, in cui c'erano sia lei sia Common. Lei racconta questo episodio della Casa Bianca come ancora oggi non ci crede. Chi era il presidente? Bill Clinton, forse? Era il 2005, se non sbaglio, mi sa che era Bush il presidente a quei tempi. Però appunto lei comunque rimane sempre con i piedi per terra nonostante questa fama incredibile. Tra l'altro ha diverse problemi anche con la casa discografica con cui ha pubblicato i suoi primi quattro dischi, perché poi nel cambiamento di scuderia la casa discografica non inizia a tirare fuori delle questioni antiche. Comunque per la Hidden Beach realizza anche un altro album esattamente un anno dopo la pubblicazione di Who's Jill Scott. Viene fuori questo Experience Jill Scott 826, ovvero un doppio album con una parte tutta live e poi delle nuove composizioni realizzate in studio. Con questo album, con Cross My Mind, ottiene un grandissimo successo discografico, ma il brano che vi proponiamo si intitola Gotta Get Up. Soundcheck, il suono della musica. E con questo brano intitolato Golden, Jill Scott ottiene il grande successo internazionale. Beautiful Human è il titolo dell'album dal quale abbiamo tratto Golden, album pubblicato nel 2004, e con Golden ottiene tantissimi riconoscimenti. La nostra campionessa di funk che arriva da Philadelphia, svezzata da Questlove con i suoi Roots, e poi approda alla corte di Erykah Badu. Insomma, abbiamo già raccontato i primi passi nella carriera discografica di questa bellissima donna. Sì, a me piace, donna, mi piace proprio fisicamente. Io vorrei, c'è quella fotografia bellissima che ho anche postato una volta con Jill Scott e Lala Hathaway. Insieme sono un monumento alla bellezza. Sì, sono praticamente imponenti proprio, cioè dimostrano l'imponenza anche della loro musica. Quanta carne, quanta carne. E che voci poi. Assolutamente. No? Allora, Jill Scott, chissà se avrò speranza, perché tra l'altro si è sposata da poco. Sì, lei si è risposata per la terza volta il 25 giugno di quest'anno, in una forma privata alle Hawaii. Ha fatto un matrimonio abbastanza segreto con Mike Dobson. Però appunto, diciamo, il terzo matrimonio è comunque la sua vita privata, i suoi amori sono stati un'ispirazione spesso per album o per per i testi delle sue canzoni. Per i testi di tutte le sue canzoni. La sua prima storia d'amore, il suo primo marito si chiamava Lizer Williams ed è anche, diciamo, la storia più lunga in realtà. Che era un disc jockey, non sì, un era musicista. Un DJ. Dopo appunto aver convissuto per 7 anni si sono sposati e anche lì il matrimonio è durato 6 anni. Nel 2007 però si sono lasciati e poi qualche anno dopo c'è il famoso aneddoto, no? Sì. Che durante il concerto alla Carnegie Hall lei dichiara con un bacio, una slinguazzata proprio pubblica il suo amore per un eccellente batterista che è Lil Jon Roberts, sì, vero? E insieme hanno tra l'altro un figlio che si chiama Jet, che poi è diventato ovviamente Jet. Sì, Jet, che è diventato ovviamente il fulcro della vita di Jill Scott, tutto ruota intorno a lui ultimamente, però dopo neanche due anni i due si lasciano, Lil Jon Roberts e G. Scott si lasciano, però ovviamente cercano di trovare un accordo avendo un figlio insieme, certo. E devono dire che lei dichiara appunto di essere riuscita a trovare un punto di equilibrio all'interno di questo rapporto. Ma il nuovo marito è un musicista? Si chiama Mike Dobson, sinceramente non te lo so dire. Ti trovo impreparato, troppo. Non ho fatto ricerche, non è in realtà il mio settore, quello del gossip. Allora, vi faccio ascoltare un brano intitolato Rolling Hills, e qui da questo brano viene fuori tutta la potenza soul e anche la venatura blues proprio che ha nel DNA Jill Scott, dall'album The Light of the Sun del 2011. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Ebbene sì, richiestissima Jill Scott, pensa, un artista che inizia la sua carriera collaborando con The Roots, tra l'altro oggi band proprio credo all'apice del successo, mai come in questo periodo, no? Stanno ottenendo dei consensi internazionali per la loro partecipazione a uno dei programmi televisivi più importanti degli Stati Uniti, che è il Tonight Show con Jimmy Fallon. Sì, assolutamente, che è anche il mio programma televisivo preferito. Sì, è un grandissimo programma, tra l'altro c'è riconoscenza strameritata, perché io li ho visti dal vivo, sono veramente impressionanti, sono dei tori fortissimi, fortissimi. E quindi un artista che inizia la carriera con i The Roots poi non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di partecipare a un album che ha portato a casa il Grammy Award, ovvero Robert Glasper Experiment Black Radio 2. Il brano era Calls, con la partecipazione di Jill Scott. Ebbene, siamo quasi ai saluti, però vorrei ricordare che Jill Scott attiva artisticamente con i concerti, con tournée, portando sempre dietro band favolose. Presto dovremmo vederla anche in Italia, anzi, per favore, promoters italiani, fate qualcosa per farci godere della presenza di questa campionessa di funk e di soul, portate in Italia Jill Scott. Ebbene, nel 2015 realizza un altro grandissimo album dal sapore retro, ma molto interessante negli arrangiamenti, nella realizzazione, anche i testi sono bellissimi. Sì, volevo ricordare che ha ricevuto ben 13 nomination per i Grammy Awards, ne ha vinti 3, ed è stata veramente un punto di riferimento, ed è ancora tutt'oggi un punto di riferimento per tutto il movimento New Soul degli Stati Uniti. Tra l'altro è anche molto attiva a livello di... cinematografico. Sì, cinematografico, è stata la moglie di James Brown nel film Get On Up, Get On Up, sì. E anche in diverse serie TV americane. Oltre a questo è anche molto attiva a livello di associazioni e di volontariato, ha fondato un'associazione che si chiama Blues Babe Foundation, che è dedicata al nome alla nonna, e praticamente lei paga le spese universitarie per gli studenti che non se lo possono permettere, perché appunto memore degli sforzi che ha fatto per laurearsi cerca di aiutare i più giovani. Adoro questa ragazza, adoro questa donna, le voglio proprio bene come se fosse una parente, anzi di più. Jill Scott al Soundcheck di Radio 24 chiude questo appuntamento che le abbiamo voluto dedicare con Fool's Gold, tratto dall'ultimo capolavoro intitolato Human. A tutti voi buona serata, buona settimana, buona musica da Gigi Telesforo e da Francesco Tromba. Vi ricordo l'appuntamento con Rai 5 per Variazioni su tema mercoledì prossimo dalle 21:15. Non arrivate in ritardo perché perdete mezzo programma che dura soltanto 10 minuti, indolore. Sì, assolutamente, sintonizzatevi per tempo. E poi sabato saremo ancora qui su questi schermi, sulla nostra radio preferita. Qual è? Radio 24. Bravo, hai visto che lo sapevi.